6. Ascolta e controlla. 1. Quella volta misi tutto a posto, insieme agli amici che mi aiutarono molto. 2. Quel giorno lui prese la strada giusta, anche se non chiese informazioni a nessuno. 3. Loro terminarono di studiare e poi corsero dagli amici al circolo del tennis. 4. Noi prima andammo al cinema, poi concludemmo la serata con un brindisi a casa nostra. 5. Tutti i congressisti arrivarono in orario e noi chiudemmo la porta dell'aula. 6. In quell'occasione io compresi tutto, ma dissi di non aver capito come stavano le cose.